A bordo campo di Dario Ricci. Ancora non sappiamo chi vincerà questi mondiali di calcio, bisognerà ancora attendere, però possiamo invece ragionare se effettivamente organizzare la Coppa è stato o meno un affare per il Brasile. Lo facciamo qui in collegamento oggi da Rio de Janeiro, addirittura con Parigi, e quindi doveroso e sentito il grazie ai tecnici di Radio 24 e di A Bordo Campo Diario Mondiale che rendono possibile questo collegamento. Lo facciamo con Ludovic Subran, chief economist di Euless Hermes, società del gruppo Allianz, un nome importante nel settore assicurativo, che ha coordinato il gruppo di lavoro di Euler, che ha in qualche modo analizzato, ha fatto un po' i conti in tasca a questa Coppa del Mondo e realizzato quindi un report a proposito. Benvenuto dottor Subran a Radio 24 e A Bordo Campo Diario Mondiale. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, dottor Subran, dal vostro studio, che ho trovato particolarmente interessante, emergono dei numeri contraddittori, no? Rispetto al fatto, alla convenienza eventuale dell'organizzazione della Coppa. Proviamo un po' ad analizzarli. I politici spesso sbandierano il fatto che organizzare questi grandi eventi sia un grande affare economico. In realtà, a livello di PIL, ad esempio, la crescita prevista per il Brasile sarà appena dello 0,2% e nei due anni successivi la crescita addizionale sarà appena dello 0,1% per anno, quindi una crescita quasi impercettibile. Infatti il problema di Brasile è che per un paese grande come questo paese emergente è quasi impossibile di credere che la crescita sarà basso del 2% di crescita. Noi prevediamo 1,8% di crescita per il Brasile e, come lei ha detto, infatti per noi l'impatto positivo del mega evento che è la Coppa, il campionato del mondo di calcio, non si vedrà nella crescita del PIL del Brasile, perché il paese è troppo protezionista, perché alla fine il mega evento che è il campionato del mondo sarà avrà più delle conseguenze in inflazione nei prezzi che nella crescita proprio del paese. Infatti adesso ci arriviamo. In realtà, tra l'altro, le vostre stime concordano anche con quelle del Fondo Monetario Internazionale, che attribuisce nel 2014 un più 1,8% al Brasile come crescita, e per paesi di queste dimensioni e di queste economie magari ce l'avessimo noi quei numeri, ma in realtà per paesi delle dimensioni del Brasile sono veramente poca cosa, e su questo l'impatto della Coppa, come dicevamo, sarà molto relativo. Invece un impatto importante, e glielo posso confermare io perché qui tra voli e alberghi i prezzi sono andati subito alle stelle, è quello proprio sull'inflazione, sulla crescita dei prezzi, ed è quello che voi stimate come l'impatto più significativo e non del tutto conveniente a breve termine, no? Il tema è che quando un paese ha l'opportunità di avere un shock positivo come un campionato, come i giochi olimpici, eccetera, uno aspetta che veramente i problemi del paese fossi un po' risolti da questa parte. Io penso in parte al Brasile sull'infrastruttura, che alla fine non c'è abbastanza infrastruttura per avere una connettività del Brasile al mondo. Penso al lavoro, alla possibilità per i giovani di Brasile di avere nuovi lavoro, posti di lavoro, e alla fine l'occupazione, per esempio, tanto come il PIL, tanto come il infrastructure gap, proprio il bisogno del Brasile di avere più delle strade, dei rapporti, degli aeroporti, della logistica, tutto quello non sta per succedere in Brasile, perché alla fine è un paese che è stato molto protezionista, che è molto difficile per gli esportatori italiani, come francesi, come tedeschi, di avere un mercato, degli sbocchi nel Brasile, perché le tasse sono troppo importanti, e alla fine il costo della vita in Brasile è stato accelerando in una forma incredibile negli ultimi anni, e io penso, e lo studio che abbiamo fatto mostra, che l'impatto del campionato del mondo sull'inflazione, sui prezzi, sarà più grande che quello sul PIL, quasi un 0,5% di inflazione in più, perché alla fine tutti questi beni che hanno importati per equipare fare le infrastrutture per il mondiale, che alla fine, cioè il campionato, che sono alla fine molto poche, sono state importate dagli altri paesi per un prezzo molto alto. E alla fine oggi, solo per darti un esempio, quando uno vive in San Paolo o Rio, è più basso da andare a comprare a Miami l'iPhone o la TV che andare a comprarlo in Rio, proprio nella stessa città dove loro vivono. Quindi alla fine io penso che la gente ha dimenticato in questi ultimi mesi che la situazione in Brasile è molto complicata, anche quando ci parla un po' del rischio societale, che alla fine tutte queste manifestazioni che abbiamo visto in Brasile nei mesi dicembre, gennaio, noi abbiamo dimenticato che era anche perché la gente era manifestando perché il costo del terra è troppo importante. Io penso che il mondiale, specialmente perché si prepara anche i giochi olimpici che saranno preparati anche per Brasile, è una forma anche di accelerare il costo della vita dei propri del popolo di Brasile, perché loro devono continuare ad importare dei beni, dei servizi degli stranieri, degli altri paesi, a un costo che è molto più alto che si non avverano queste tasse all'importo. Quindi io penso che il tema è veramente che alla fine l'impatto economico sul PIL è troppo piccolo, e l'impatto economico vero è negativo, perché ci crea molto problemi e tensione sui prezzi. Ecco, sottolineava l'aspetto del mercato del lavoro, un altro luogo comune su questo tema, spesso sbandierato dalla politica o dalle grandi organizzazioni che portano questi eventi nei vari paesi, è la creazione di posti di lavoro. Da questo punto di vista, il vostro studio, come già lei citava, evidenzia che l'impatto a lungo termine sarà veramente minimo. Sì, infatti sull'occupazione è un impatto molto interessante, perché io penso che nel periodo 2009-2014 noi pensiamo che si creerà 700.000 nuovi posti di lavoro, però alla fine si parla di 100 milioni di posti di lavoro che il Brasile ha bisogno per risolvere il problema della disoccupazione. Quindi io penso che veramente il tema è che questo impiego lavorativo creato sarà di molto breve termine, e alla fine legato al turismo, a tutto il business legato al campionato, però alla fine non penso che il vero problema del Brasile è tutti questi giovani che non sono impiegabili. Quindi non è una questione solo di avere questi short term jobs, questi posti di lavoro di breve termine, però anche di vedere come si può creare delle catene di valore, proprio dei posti sull'industrializzazione del Brasile. Ti do un esempio, le macchine per esempio. Ci sono tante imprese straniere che hanno voluto aprire un sito di produzione in Brasile per fare proprio le macchine lì, che non hanno fatto il business alla fine, perché pensano che è molto complicato per loro importare tutti questi beni di equipamento che permetterà fare proprio la produzione in Brasile, perché non si può creare tutto il sito produttivo da una volta, non è che si può fare. Quindi alla fine tutti questi giovani che magari potevano essere impiegati in questi business, nelle queste industrie, non è questo il lavoro che si è creato dal campionato o nei ultimi anni in Brasile, solo sono posti di lavoro che sono molto transitorio, temporanei, e che alla fine io penso che il problema è veramente di occupare a tutta questa tutti questi genti per avere la possibilità anche loro di guadagnare la vita e di consumare di più. E questo non è proprio la strategia adesso del Brasile. Il Brasile ha fatto molto sulla riduzione della povertà, con Bolsa Famiglia, tutti questi programmi delle trasferenze alle famiglie direttamente per aiutare a educare i bambini, a avere i controlli di salute, però sulla creazione di posti di lavoro non c'è veramente una strategia di crescimento e di crescita economico che sia industriale, abbastanza industriale per creare degli posti e della impiegabilità tra i giovani che possono avere questi posti e che non sia solo temporaneo, transitorio. Le chiedo ancora per chiudere due domande, o meglio una riflessione. A ottobre ci saranno le elezioni presidenziali e quindi tornerà alla politica il compito di risolvere questi problemi in vista anche delle Olimpiadi di Rio 2016, che sono l'altro grande evento. E le chiedo, alla luce dello studio che avete fatto e della sua esperienza, ma allora chi glielo fa fare a questi paesi di farsi carico dell'organizzazione di questi grandi eventi? Qual è? C'è effettivamente un tornaconto, un guadagno, quantomeno a livello di immagine, di brand internazionale? E 5 anni fa tutti aspettavano che la crescita del PIL di Brasile sarebbe di un 5% annuale. Siamo sotto 2%, siamo a 2% neanche. Quindi io penso che la situazione del Brasile è che con l'inflazione, con questo tema della disoccupazione tra i giovani, anche sull'esecuzione del budget, della possibilità del Brasile di organizzare un campionato, con questo mega evento internazionale, io penso che le pressioni sulla politica economica dei dirigenti brasiliani, e io penso che la presidenta Rousseff sarà certamente rieletta, non è che io penso che la popolazione del Brasile è molto legata a lei, perché ha fatto tutti questi programmi, ha continuato tutti questi programmi che aveva iniziato Lula sulla riduzione della povertà, e dobbiamo ricordare che il Brasile è anche un paese ancora molto povere, e quindi io penso che ci sarà un cambiamento della struttura delle politiche economiche. Io penso che il campionato di calcio sarà un'opportunità anche per ripensare il business model del Brasile. Quindi io penso che l'unica forma ad ottobre per il partito di guadagnare l'elezione sarà di suggerire al popolo di Brasile una forma di crescita che sia anche una connessione, un'integrazione alla crescita mondiale. Io penso che adesso il Brasile è troppo protezionista, è troppo guardando troppo quello che sta succedendo domesticamente, però la regione e anche il mondo, con questa opportunità di visibilità, sta aspettando molto di più del Brasile, che è un paese che deve che ci vuole contare a livello internazionale, che per il momento è bloccato in una situazione molto complicata domesticamente e che non sa come uscire di questa situazione. E io penso che l'impatto più grande del campionato di calcio in Brasile sarà di fare molto più delle pressioni al governo brasileño per aiutare a una crescita molto più sostenibile, ma anche molto più forte a breve termine in Brasile. Bene, allora staremo a vedere. Intanto Ludovic Subran, Chief Economist di Euler Hermes, grazie per essere stato il nostro ospite e buona Coppa del Mondo. Grazie. A bordo campo. Allora, Casa Azzurri nel pieno del mondiale. Un'iniziativa davvero particolare, legata al tifo, legata al Brasile, legata a questa coppa che non porta solo polemiche e campioni, ma anche dei progetti importanti che vanno oltre la coppa. Ne parliamo oggi con qualche ospite, anche qualche giovane vincitore di un concorso davvero singolare. Io tifo positivo. Allora, ci introduce questo progetto Alessandro Pinto. Alessandro, com'è nato questo progetto? Chi lo promuove? Allora, questo progetto intanto è nato in collaborazione da parte del Save the Dream, che è l'organizzazione che rappresento, in collaborazione con il Comitato Italiano Sport contro la Droga, la FIGC, il MIUR, il Ministero della Pubblica Istruzione, il CONI, l'Ufficio delle Nazioni Unite UNICRI, Roma Capitale e l'International Center for Sport Security. Credo che sia appropriato dire che ci è sembrato importante fare un momento di riflessione sul tifo positivo, sulla correttezza dell'interpretazione di alcuni valori dello sport sia fuori che dentro il campo, di farlo in un contesto così importante come i mondiali e di provare a contribuire a una cultura dello sport che parta dai giovani e che riesca ad insegnare loro innanzitutto a prendere le misure con un evento sportivo come questo, a vederlo dal di dentro. Loro hanno una piattaforma in questo momento di esperienza che va al di là di quello che un ragazzo di 16 anni normalmente ha la capacità di provare, no? E quindi vedere tutto quello che c'è dietro, quanto è complicato, quanto è difficile. Ecco, rimanendo però sul progetto Io Tifo Positivo, non a caso già facevi riferimento ai due vincitori del concorso che sono qui a fianco a noi, come si è sviluppato e con quali obiettivi? Allora, intanto il concorso è stato un concorso indetto dalla pubblica istruzione, concorso nazionale per le scuole medie superiori, ragazzi di 16, 17, 18 anni, che dovevano produrre veramente in casa un video, uno short video di un minuto e dieci, che rappresentasse il loro modo di vedere il tifo positivo. E questi ragazzi credo che abbiano dato due interpretazioni diverse, e questo è importante, ma anche che ci abbiano messo molto del loro, che non abbiano preso cose che non gli appartenevano. Sono convinto che, conoscendo poi questi ragazzi, standoci insieme questi giorni, riflettono il loro carattere, la loro istruzione, la loro estrazione, insomma, due bei lavori. Direi anche l'obiettivo è quello di legare questa situazione alla difficoltà dell'infanzia, in particolare in Brasile, no? Sappiamo quanto questo sia un tema, un problema irrisolto da parte di questo paese. Ecco, in modo molto sintetico, qual è lo stato dell'arte attualmente e cosa si sta facendo, anche tramite la vostra associazione? Ma noi abbiamo fatto un partenariato con l'UNICEF Brasile e abbiamo insieme a loro sviluppato un'applicazione che può essere, il cui download può essere fatto su qualsiasi smartphone, su qualsiasi tablet, che si chiama Protega Brasil, che intende segnalare tutte le situazioni di pericolo che riguardano l'infanzia durante un evento mondiale sportivo. Si tratta di un'iniziativa importante perché innanzitutto tiene in considerazione la protezione, quindi non agisce dopo che il danno è stato fatto. È una cosa che si confà molto al Brasile perché le segnalazioni vengono fatte in anonimo, che è una cosa molto importante vista il tipo di violenza, il tipo di malavita che troppo spesso c'è stata descritta nelle favelas brasiliane. E quindi questa è la nostra parziale, senza dubbio incompleta risposta, però è un progetto che vuole appunto allungarsi per i 3 anni fino alle Olimpiadi di Rio 2016. E ai ragazzi è stato spiegato questo. Di questo io sono particolarmente contento perché ci tenevo a che si confrontassero con realtà molto diverse da quella italiana. Beh, insomma, direi chiaro, risposte definitive è difficile trovarne, ma si procede passo dopo passo. E allora sentiamoli i vincitori di questo concorso di Io Tifo Positivo, ce li abbiamo qui. Allora presentatevi e poi ci descrivete i vostri video, prego. Ciao, sono Matteo Sabato, ho 17 anni e frequento il liceo classico Ennio Quirino Visconti a Roma. Direi che dall'accento sei romano appunto come me. Senti Matteo, in che modo hai raccontato il tifo positivo nel tuo video? Poi lo metteremo anche sul nostro sito, su radio24.it, quindi gli ascoltatori potranno anche vederlo. Diciamo che ho cercato degli esempi calzanti che potessero rappresentare quello che volevo comunque sia esprimere attraverso questo video. Prima ho rappresentato quello che non ci piace del calcio, ovvero appunto è il tipo violento e magari che coinvolge le autorità e comunque sia rende il calcio non uno sport piacevole. E poi ho voluto attraverso immagini e video descrivere quello che ci piace del calcio, che è proprio lo sport in sé. E ho messo il gol ovviamente del capitano, perché essendo romanista... Oddio, il capitano Totti? Certo, c'è solo un capitano, scusami. Chiariamo per chi tifa per le altre squadre. Esatto. E nulla, ho cercato degli esempi più calzanti per esprimere quello che appunto ho voluto rappresentare. Che tifo ti aspetti da questo mondiale che riunisce 32 nazioni, 32 modi diversi di vivere il calcio, o meglio forse il pallone, no? Il gusto per il gioco, come stavi raccontando? Io spero sempre in un tifo non violento, ma data la situazione anche nel Brasile, diciamo, vista la situazione sociale, io mi aspetto un tifo, io spero in un tifo positivo, ma guardando in faccia la realtà e anche dai fatti che sono successi, non lo so, io spero in bene, insomma. Invece guardando all'Italia, perché forse questo progetto che arriva qui serve forse più a noi, visto come è andata l'ultima annata e non solo. Sì, infatti. Che messaggio volete mandare? Diciamo di un tipo non violento, che possa, diciamo, non intaccare quello che è il calcio, lo sport, e che non possa essere di ostacolo a questo. Allora, da Matteo passiamo a... Samuele Tandrone, sono di Bolzano, io invece proprio a nord. Bello, quindi avete fatto proprio un abbraccio fra due Italie diverse, insomma, un po' diverse. Quello sì, frequento l'Istituto Tecnico-Tecnologico Galileo Galilei. Io ho voluto descrivere il tifo in generale, non solo nel calcio, ma in tutti gli sport. E volevo raccontare che i tifosi non conoscono i giocatori, quindi diciamo che qualcosa li spinge a tifare per loro. E nel video parlo, infatti, e descrivo questo. Quindi c'è quasi un legame empatico, no? Con un campione che in realtà è molto lontano da noi, ma che in altro modo ci rappresenta, a cui deleghiamo il compito di rappresentarci sul campo nella battaglia sportiva. Sì, anche nelle squadre, diciamo, perché il giocatore non sa com'è, dove vive il tifoso, la sua vita, niente. E è molto bello il tifo, cioè tifare, perché alla fine il giocatore rappresenta la squadra, come ha detto lei, no? Senti, è un'esperienza in Brasile che non si ferma qui a Casa Azzurri, dove avete visto i campioni della nazionale, l'atmosfera che ruota intorno alla squadra azzurra, ma che prevede anche diverse esperienze per voi, vero? Sì, altre esperienze, diciamo anche a Rio de Janeiro, che vivono diversamente da noi. È stato molto toccante per me, perché ho visto molte case vicine, ho visto la parte dei poveri e la parte dei ricchi. La favelas e invece i quartieri bene di Rio. Sì, quello sì, quello. Ecco, la tua impressione? Molto toccante, come ho detto prima. Spero, cioè, diciamo che secondo me non dovrebbero fare i mondiali in Brasile, perché c'è tanta povertà, e dovrebbero prima pensare alla vita dello sport, diciamo, prima dello sport. Beh, speriamo, Samuele, che la Coppa ci porti qualche aspetto positivo e anche un po' d'ottimismo, che è un po' il carburante che ci serve per portare a termine anche questi progetti. Intanto complimenti a te, complimenti a Matteo e a Save the Dreams per questa iniziativa, che è anche una sfida. Per A Bordo Campo, Diario Mondiale, è tutto. Un grazie a tutti i tecnici che tra Milano e il Brasile hanno reso possibile anche questa puntata. Vi ricordo che potete scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci sul nostro sito radio24.it, da cui potete scaricare anche il podcast della puntata. L'appuntamento con A Bordo Campo, Diario Mondiale, come ogni domenica alle 16:30. Un saluto dal Brasile da Dario Ricci.